Innanzitutto mi presento, allora, credo abbiate chiaro che non ho molta voce, non ho molta fortuna e magari mi avvarrò del microfono in maniera, forse mi sentite meglio così, con questa voce bassa e profonda e abbastanza fastidiosa, ma purtroppo tant'è, così da ieri, quindi si fa del nostro meglio. Allora, io sono Irene Fattaccio, vengo dall'università. Volevo fare ah, così, la presentazione, se hai bisogno. No, sei obbligata, ma sei più forte. No, questo, però scelgo questo, grazie, ma Sì, così non ce la posso fare, ce cioè, la vuoi fare. l'imbarazzo. No, scusa. Chiedo scusa. Salirei Fattaccio, vengo dall'Università di Torino, ma in realtà sono di Firenze, come probabilmente sentirete. Vengo dall'Università di Torino. Ho un percorso di storica, un percorso abbastanza interdisciplinare, mi sono laureata nel lontano 2005 e ho fatto un dottorato all'Istituto Universitario Europeo, poi sono stata postdoc e poi assegnista e ancora viaggio in un fantastico mondo di precariato, per cui sono il classico postdoc perenne, così, perenne giovane. Quindi sono una giovane ricercatrice. Di cosa mi occupo? Mi sono occupata di varie cose. In particolare la tesi di dottorato si è centrata sul cacao. Cacao perché? Il cacao, in quanto prodotto fondamentale all'interno di quel processo che noi si è soliti chiamare rivoluzione dei consumi, che ad oggi insomma è anche un termine assolutamente messo in discussione, abusato, ma insomma, per darvi l'idea di quel periodo, fra il 700, fra la fine del 600 e la fine del 700, nel quale le modalità di consumo in Europa cambiano e si assiste a una radicale trasformazione dell'accesso al consumo. In che termini? In termini di un passaggio da un consumo determinato dall'appartenenza sociale a un consumo determinato dal potere d'acquisto. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che per secoli, prima del Settecento, prima dell'Illuminismo e prima di tutti i processi che ricercheremo poi nel corso di questo mio breve intervento, dicevano in Europa, non so se qualcuno di voi ha familiarità, magari dirò anche delle banalità, però so che siete studenti del corso di mediazione culturale e non di storia, quindi magari alcuni temi non li avete mai affrontati o non li avete mai incontrati, a seconda anche di a che punto siete nel vostro percorso universitario, quanti esami di storia non fate, eccetera. Poi magari scusatemi se dirò per alcuni delle banalità. Fino al Settecento vigono in Europa quelle che si chiamano leggi suntuarie. Cosa sono le leggi suntuarie? Sono tutta una serie di norme molto precise che dicono chi può consumare cosa, a seconda della classe di appartenenza, a seconda del ceto di appartenenza. Per cui non è il potere, non è la capacità di acquisto di un prodotto. I prodotti, i negozi come oggi li conosciamo, non esistevano neanche. I prodotti, quello che oggi si chiama display, no? Nel senso il fatto di mostrare delle cose. Browsing, not for things, per cui entrare in un negozio e cercare delle cose, vedere che cosa c'è di disponibile sul mercato, è un concetto che nasce a partire dalla fine del Settecento e dall'Ottocento, si sviluppa poi alla fine dell'Ottocento con la nascita dei mall, dei grandi magazzini, con lo sviluppo delle città e altri, eccetera, ma che prima non esisteva, perché se ognuno poteva vestire solo in un certo modo, vestire determinati tessuti, consumare determinati prodotti, non c'era proprio questo meccanismo in qualche modo del consumatore che entra in un negozio e sceglie. Per cui nel Settecento il sistema delle leggi suntuarie in qualche modo entra in crisi, come entrano in crisi tutta una serie di meccanismi e sistemi collegati, in primis quello delle corporazioni, no? Dei guilds, delle corporazioni che dividevano il mercato del lavoro in gruppi ben definiti di interessi e di produttori. Quindi andremo a occuparci, questo per dirvi in generale, insomma, andremo a occuparci di questo periodo storico, di questo processo, solo due note pratiche, perché diciamo è quello di cui la storia e la sociologia dei consumi sono quello, insomma, di cui mi sono occupata maggiormente nel corso degli ultimi anni. Un altro tema di cui mi sono occupata, questo magari al lato per dare, no, scusate, torno indietro, una premessa metodologica, nel senso io quello che farò sarà un intervento il più possibile breve, perché sapendo io in primis di avere lo span di attenzione di un bambino di 5 anni, quindi non posso andare oltre la mezz'ora, do sempre per scontato che chi sta dall'altra parte abbia il mio stesso problema, e quindi pensavo di fare questo, un intervento di circa 25 minuti, mezz'ora, delineandovi le questioni principali e poi lasciare spazio alle domande, indicandovi proprio anch'io quali sono quelli che sono i temi che possiamo approfondire se sono di maggiore interesse anche per i vostri percorsi di studio. Per cui questo, diciamo, è quello che farò. E per questo vi segnalo che l'altro tema di cui mi sono occupata, anche in relazione proprio alla diffusione dei prodotti esotici, è il tema della razza e della schiavitù. Quindi questo al lato, in caso poi ci si voglia occupare, perché tutti i prodotti esotici che andremo a vedere oggi, in primis il cacao, sono strettamente legati alla manodopera schiavile. Fino alla fine dell'Ottocento, anzi fino all'inizio del Novecento, se non vogliamo dirlo oggi, visto che le forme di schiavitù indirette ci sono, esistono e sono presenti, e che soprattutto hanno caratterizzato tutta la seconda ondata della schiavitù in Africa nel corso dell'Ottocento, proprio attraverso il trasferimento di questi prodotti. Nel momento in cui gli spagnoli, i francesi, gli inglesi perdono le colonie nelle Americhe, cosa fanno nel corso dell'Ottocento? Ad oggi il cioccolato che voi mangiate, che voi potete trovare sul mercato, viene dall'Africa, viene dall'America Latina. Il 5% del cioccolato mondiale viene dall'America Latina, il cacao, il resto viene dall'Africa. Perché? Perché nel corso dell'Ottocento, una volta perse le colonie, i poteri ex coloniali, la prima cosa che hanno fatto, nei nuovi e vecchi possedimenti africani, hanno trasportato questo tipo di semi e hanno iniziato queste coltivazioni. Per cui ad oggi il grosso di queste coltivazioni, non so, appunto io ho chiesto a Maria prima di venire a fare questa lezione quali erano i vostri possibili percorsi, sbocchi, eccetera. Qui immaginando anche che molti di voi forse siano interessati, abbiano voglia, o finiranno, io ve lo auguro, sì, per chi ne ha l'intenzione, di lavorare su vari territori, anche nelle ONG, eccetera, se avete voglia, magari poi alla fine possiamo anche aprire, diciamo, dei temi collaterali che vanno più in questa direzione, visto che trovarsi a lavorare oggi in Africa, in America Latina, che sia l'Ecuador, che sia la Sierra Leone, per quanto riguarda questioni economiche e sociali, devi assolutamente, se vuoi, capire che cosa succede oggi e quali sono le dinamiche economiche e sociali delineate negli ultimi 50 anni, andare a vedere due secoli fa, nel periodo tra la fine del colonialismo e la nascita degli stati indipendenti, che cosa succede e che tipo di economia e che tipo di società si configura. Cioè i processi nascono qui. Se tu non vai a vedere qui, l'oggi, lo capisci molto difficilmente. Allora, noi andiamo, come abbiamo già detto, Erika, perché tu sei Erika, che ci hanno già sentito gli amici, scusate, adesso ho capito. Oggi andiamo a occuparci di cacao. Perché? Perché andiamo a occuparci dello scambio, della trasmissione che prende le mosse, no? Nel periodo dell'età moderna, che coinvolge piante, microbi, animali, no? E che si muovono attraverso il mondo con le esplorazioni e con le colonizzazioni che caratterizzano il periodo. Però in questo movimento non tutti i prodotti che gli europei hanno incontrato, e vi faccio solo qualche esempio: il cacao, la coca, il tabacco, il caffè, il tè, le patate, il pomodoro, non tutti questi prodotti hanno condiviso lo stesso destino. Alcuni hanno avuto grandissimo successo, altri, come la coca per esempio, che è un altro dei prodotti che toccheremo di striscio, ha riscosso un successo estremamente tardivo, finché non si è riusciti a estrarre dalla coca quello che è il suo principio attivo, che è la cocaina, e che è una cosa che non succede fino alla fine dell'Ottocento. Per cui alcuni entrano immediatamente nella vita quotidiana degli europei, altri ne rimangono fuori moltissimo a lungo, per tutta una serie di ragioni. Quello che le ricerche degli ultimi 10-20 anni, che ci si comincia anche sull'onda del grande interesse, no, che la società dei consumi ha oggi, ci si comincia a occupare di questi temi anche guardando al passato, alle origini anche di tutta una serie di fenomeni che si osservano oggi, tutte le ricerche condotte hanno mostrato come già nel XVII, già nel XVIII secolo ci siano al lavoro una serie di forze, di relazioni di potere, di costruzioni simboliche che determinavano l'accesso alla cultura materiale. L'età moderna, tra 600 e 700, in particolare questi due secoli, sono un momento di grandi cambiamenti nelle società europee e negli equilibri fra l'Europa e il resto del mondo. Per il 700 è il periodo dell'illuminismo, si iniziano a delineare soprattutto nel 700 tutta una serie di fenomeni che poi avranno il loro culmine nell'800, in primis la nascita degli stati-nazione, la nascita delle diverse identità che poi si configureranno come stati-nazione, si sviluppano le premesse della rivoluzione industriale. Qui apro una parentesi, la nascita di molteplici società dei consumi, dove l'accesso ai prodotti, come dicevo, non è più determinato dall'appartenenza sociale, ma è determinato dal potere d'acquisto. Quindi io posso comprare ciò che ho i soldi per comprare, che può sembrare un meccanismo scontato, ma che invece è in qualche modo parte di un processo storico e non è sempre stato così. E ha tutta una serie di conseguenze poi per le società che si è configurata successivamente. Poi allo stesso tempo però sono anche due secoli in cui gli europei fondamentalmente esplorano, o meglio, approfondiscono le esplorazioni iniziate nel Cinquecento del globo e soprattutto nel quale è il periodo centrale degli imperi europei. In particolare io mi occupo di storia atlantica, quindi mi occupo di questa parte del mondo, della parte fra le Americhe e l'Europa. In particolare in quell'oceano, nell'oceano Atlantico, collidono nel corso del Settecento tre imperi, quello francese, quello inglese e quello spagnolo. Sono in completa collisione sulla rotta dell'Atlantico. Ora, in questo contesto, la curiosità, in particolare per quanto riguarda l'Atlantico, suscitata dai possedimenti spagnoli. Ora, qui infatti, mostravo questa diapositiva, no? Come vedete, questa illustrazione dimostra questo indiano, un indiano che chiede a Nettuno di portare al mondo la cioccolata, no? E farla conoscere in qualche modo. Per cui tutta questa curiosità per i possedimenti americani alimentava il desiderio di una serie di prodotti che iniziavano dall'inizio del 600 ad apparire sui mercati europei. Ora, appunto, come abbiamo detto, io mi focalizzerò sul cacao perché vorrei che funzionasse come un filo rosso per presentarvi tutta una serie di meccanismi che però si applicano, che però in qualche modo possiamo generalizzare. Prima di tutto meccanismi di appropriazione culturale all'interno della colonizzazione di spazi extraeuropei, per cui appropriazione di prodotti, appropriazione culturale e sociale. Il processo di creazione di un bene di consumo, il processo di creazione della domanda di consumo. Per creare un bene di consumo bisogna creare la domanda, ad oggi è uno dei meccanismi centrali della nostra società. Si crea il desiderio, uno dei meccanismi centrali della società di consumo è il desiderio. Come si crea il desiderio? Il desiderio di guadagnare di più per comprare un prodotto. Quando prima vi dicevo, apro una parentesi, era sulla la apro qui, molto piccola, però per spiegarvi in maniera molto elementare magari cosa intendiamo noi per rivoluzione dei consumi e rivoluzione industriale. Tutti in un corso base, insomma, di storia moderna e contemporanea arriviamo a fare la rivoluzione industriale. Quello negli ultimi 30 anni, quello che la ricerca ha postulato è andare a vedere nella rivoluzione industriale che lettura dà della società dei consumi. La società dei consumi è una conseguenza della produzione. Okay? Arriva la rivoluzione industriale, si producono più cose, si crea la società, cioè si creano tutta una serie di meccanismi di consumo in funzione di quello che è il supply side, no? Il lato dell'offerta, in questa polarizzazione fra domanda e offerta. Ad oggi gli studi vanno molto a, in qualche modo, mettere in discussione questo tipo di visione, non a rovesciarla, che sarebbe ridicolo prendere, come spesso si fa con gli studi postmoderni, no? Una prospettiva completamente del soggetto, per cui sono i consumatori che determinano ciò che si produce, ma in qualche modo si va a smussare questo tipo di visione, prendendo in considerazione quella che uno storico in particolare, Jean de Vries, ha formulato come la rivoluzione industriosa. La vado a spiegare in termini veramente, veramente elementari. Cosa dice de Vries sulla rivoluzione industriosa? Dice, no, non è vero, non è soltanto che a un certo punto nascono le fabbriche, si cominciano ad avere prodotti, beni, prodotti in massa immessi sul mercato e questo accresce la domanda e questo crea un potenziale bacino di consumatori. No, quello che succede secondo lui è che già nel secolo precedente, cioè nel Settecento, si assiste in qualche modo, perché la domanda fondamentale è perché un contadino in una società fondamentalmente agricola come quella del Settecento comincia a... come accede all'economia di mercato basata sul denaro? Come si passa da una maggior parte della popolazione che produce, che consuma ciò che produce, cioè che ha una mucca, produce del latte, c'ha un campo, produce delle verdure, per quale motivo a un certo punto il contadino va sul mercato a comprare della seta, del cotone, della lana, del cioccolato, del caffè, dello zucchero, tutti i beni che tutti noi consumiamo oggi e che hanno trainato l'economia del Settecento, dell'Ottocento, del Novecento? Perché? Secondo Jean de Vries sono proprio questo tipo di prodotti esotici, prodotti che appartengono, in qualche modo sono svincolati da tutta una serie di norme sociali, perché appartengono a uno spazio altro, che non è extraeuropeo solo in termini geografici, ma lo è anche in termini sociali, non sono legati a ceti sociali, non sono legati a norme consolidate, non sono legati a divieti consolidati e hanno tutta tutto il fascino in qualche modo esotico di prodotti appunto non legati alle norme morali europee. L'arrivo sul mercato di questi prodotti in qualche modo stimoli un meccanismo per cui il contadino, veramente la faccio molto elementare, ma insomma alla fine questo è, invece di avere una mucca e un campo, comincia a prendere due mucche e a produrre un po' più verdura. Quella verdura la porta al mercato, la vende, con il denaro che ne ricava va e si compra una tazza di cioccolato. Questo è il meccanismo che viene, diciamo, in qualche modo descritto come rivoluzione industriosa, messo molto banalmente, però è questo fondamentalmente, come tutta una serie di prodotti abbiano in qualche modo stimolato l'inizio di un meccanismo secondo il quale invece di produrre solo ciò di cui ho bisogno, vado a produrre di più, stimolo la produzione per andare sul mercato a procurarmi tutta una serie di beni che io non posso produrre. Questo per dire appunto cosa si intende per creazione di un bene di consumo e creazione della domanda. Quindi le domande a cui cerco di, insomma, a cui cerco di guardare oggi sono, questa era la foto del cacao che vi dovevo mettere 5 minuti fa. Le domande a cui cerco di rispondere oggi rispetto all'assimilazione del cacao, in qualche modo mi piacerebbe se vi potessero dare degli spunti di riflessione, visto che nessuno di voi credo nella vita voglia studiare il cacao o comunque avere a che fare col cacao a parte mangiarlo, che vi diano degli elementi di riflessione, vi diano degli elementi per in qualche modo poter trarre anche una serie di generalizzazioni, capire i meccanismi e non soltanto una storia specifica. Ora, siamo partiti, ho cercato di partire dal perché, cioè perché andare a guardare proprio questi prodotti? Innanzitutto perché è un cibo, perché proprio il cacao? Perché è un alimento? Perché? Allora, innanzitutto perché queste bevande stimolanti, perché questi prodotti psicoattivi sono tra quelli che più suscitano l'interesse in età moderna dei contemporanei in Europa. Suscitano grandissimo interesse, suscitano grandissimo dibattito e sono fra i prodotti di maggior duratura e importanza economica negli scambi coloniali e non solo all'interno della dinamica coloniale, cioè successivamente ad oggi noi parliamo di one crop economies, cioè, molte delle per 50 anni e per tutto il Novecento il 90% delle economie ex coloniali sono one crop economies, cioè sono economie che non producono prodotti finiti ma producono prodotti non lavorati e in particolare si focalizzano sulla produzione di un, no? Un bene, cioè qui in Brasile si produce il caffè, in Italia si produce il cacao, cioè, per cui one crop economy, un'economia basata su un prodotto in particolare e un prodotto che non viene lavorato sul territorio, ma che viene semplicemente esportato come materia prima e poi lavorato nei paesi che erano, che sono, diciamo, le ex madre patrie. E poi perché un alimento, visto che siamo qui appunto perché è un laboratorio sul cibo, perché andiamo a parlare di un alimento per guardare a questi fenomeni? Andiamo a parlare di un alimento perché questi prodotti, il cacao, il caffè, sono stati capaci nel corso del Settecento e poi successivamente di stabilirsi come centro gravitazionale di una serie di pratiche sociali. Hanno creato proprio il loro spazio, hanno creato una serie di luoghi, a partire dal banalissimo caffè, centro della vita sociale del Settecento e dell'Ottocento e centro della socialità borghese. Luogo di partenza e luogo ritenuto dalle autorità dell'antico regime è fondamentalmente un luogo pericolosissimo, dove pericolosissimi sovversivi del ceto medio si incontravano discutendo del giornale. Questo è ciò che dicono i testi, no? Tra il Settecento e l'Ottocento. E poi ci danno un perché un alimento in qualche modo, in particolare alimenti come il cacao, il caffè, il tabacco, che sono sostanze psicoattive, questo non lo dimenticate, perché è ovvio che gli effetti a distanza di 3 secoli in una società come la nostra, soprattutto dove i nostri corpi sono abituati da secoli a interazioni con determinate sostanze, siano totalmente irrilevanti, ma sono sostanze psicoattive e la loro psicoattività è perfettamente visibile ai contemporanei dell'età moderna. Sono sostanze che hanno un effetto sul corpo, sono eccitanti o sono calmanti nel caso del cioccolato o nel caso del tabacco, eccetera. E quindi la loro psicoattività, e rispetto a quello che può essere guardare alle sete, alle stoffe e tutto quanto, secondo me ci può dare in qualche modo un elemento in più per comprendere le varie dimensioni del desiderio. Perché se in qualche modo la spiegazione completamente sociale, no, che di solito è quella dell'emulazione, la seta percepita come prodotto di lusso, che quindi quando si abbassa il costo diventa in qualche modo disponibile, allarga il suo range di potenziali consumatori e attraverso l'emulazione delle classi alte, no? Le classi basse che emulano, il famoso quello che si chiama trickle down fenomeno, no? Quindi il consumo va così, dall'alto verso il basso, dalle classi nobili alle... Allora, innanzitutto questi prodotti ci fanno vedere, per esempio nel caso del tabacco, è assolutamente un prodotto che va in trickle up, cioè nel senso che si diffonde da basso verso l'alto, per cui sovvertono anche tutta una serie di generalizzazioni che di solito si fanno sulla diffusione dei consumi, ma soprattutto il consumo degli alimenti è un consumo effimero, per questo secondo me, cioè è un consumo che ha un fortissimo valore sociale e di socialità, perché il cioccolato, il caffè, il tè non a caso venivano consumati soprattutto in luoghi pubblici, quindi sono stato simbolo, lo sono assolutamente, ma sono anche stato simbolo effimeri. Poi dovete pensare che dai testi noi evinciamo addirittura persino dei jornaleros in Spagna, che è il contesto di cui mi occupo io nello specifico, persino il bracciale, insomma il lavorante giornaliero, si indulgeva occasionalmente in una tazza di cioccolato, che è qualcosa che gli costava una settimana di stipendio. Allora noi questa cosa, questo fenomeno cominciamo a vedere apparire dalla seconda metà del Settecento, secondo me ci aggiunge degli elementi in più per andare a rendere ancora più complesso, andare oltre, no, la semplice dinamica del nobile consuma seta, quindi poi il borghese consuma la seta, quindi poi quando costerà ancora meno allora si allarga ancora, ma oltre a vedere questo meccanismo, secondo me il cibo ci può dare degli spunti di riflessione ancora maggiori. e complicare ancora un po' più le cose, che fa sempre meglio. E poi perché? Perché è importante? Perché, come ho detto, la dimensione esotica, secondo me, è essenziale per comprendere sia i meccanismi di creazione del desiderio, sia l'impatto che questi beni hanno, che era fondamentalmente la tesi centrale della mia tesi, dire, guarda, questi prodotti, soprattutto nel mio caso quello spagnolo, il cacao, ha aperto la via per tutto il resto, per la popolarizzazione di tutti gli altri prodotti di lusso. Cioè, dire, il fatto di essere esotici, di non essere legati a norme preesistenti, di non essere legati a tutta una serie di norme sociali, ha permesso una popolarizzazione precoce e ha aperto la via, ha aperto le case, poi invece all'apparizione di orologi, specchi, sete, stoffe, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa che poi veniva confermata, ci avevo ragione, anche dai dati poi emersi dagli inventari. E quindi prodotti esotici di semilusso con proprietà psicoattive e fortissimamente legati ai traffici coloniali ed economicamente estremamente rilevanti. Sono prodotti che hanno tutta questa serie, tutto questo popolo di caratteristiche. Nel caso spagnolo in particolare, perché il cacao? Perché il cacao nel contesto spagnolo è estremamente rilevante non solo dal punto di vista economico, perché è uno dei principali prodotti del commercio atlantico, ma è anche estremamente rilevante dal punto di vista culturale, nel senso proprio strettamente legato all'identità culturale spagnola di questo periodo. Io cercherò ora di, se ci sarà poco in questa prima parte, e poi insomma se voi avete voglia ci torneremo, cercherò di guardare al cacao comunque non in isolamento, ma in qualche modo facendo riferimento appunto anche a tutta l'altra serie di prodotti che ho accennato prima. Allora, il cioccolato era, molti di voi lo sapranno, insomma, la storia, diciamo, il grande lineamento, ma a grandi linee la storia del cacao, era fondamentalmente uno dei prodotti principali già nelle culture amerindie, era la bevanda dei nobili, era la bevanda dei religiosi, era la bevanda dei sacerdoti ed era soprattutto una moneta di scambio, cioè tanto era il valore del cacao che i suoi semi seccati venivano usati come le fave del cacao venivano usate come moneta di scambio. Ora, dopo un iniziale difficile impatto, i conquistatori spagnoli presero immediatamente confidenza con la bevanda che già a partire dalla fine del Cinquecento noi troviamo come ampiamente consumata nelle colonie. Allo stesso tempo però dall'altra parte del mondo, dall'altra parte dell'oceano, cioè in Europa, anche il cioccolato iniziava a rappresentare per la madre patria, per la Spagna in particolare e per tutti coloro che nello stesso periodo si cominciavano a affacciare a livello di traffici, quindi soprattutto gli olandesi, successivamente inglesi e francesi, ma principalmente in quel momento gli olandesi, rappresentava in primis una grandissima opportunità commerciale, ma allo stesso tempo presentava una serie di problemi dal punto di vista dell'appropriatezza morale e sociale. Ora, probabilmente non molti di voi hanno familiarità, però la materia medica del nuovo mondo, cioè tutti i prodotti, tutta la fauna e la flora incontrata nel nuovo mondo, genera una quantità di letteratura impressionante in Europa e suscita un fortissimo dibattito. Perché? Innanzitutto perché il nuovo mondo, insomma, poi sicuramente questo lo avete incontrato nel corso di storia, però insomma, il nuovo mondo non esisteva ed essendo fuori dall'esistente e fuori dal racconto della Bibbia, in qualche modo l'uomo europeo si trova a dover far fronte su perché esiste qualcosa, no? che non era contemplato inizialmente, che posto gli do, come lo colloco all'interno delle categorie mentali dell'epoca. All'epoca la medicina era medicina galenica è una medicina basata fondamentalmente, non vi sto a tediare con questo, ma insomma la medicina galenica ci vedeva fondamentalmente come composti di quattro parti: fuoco, aria, terra e acqua, e in base a questo classificava sia tutto il mondo naturale che le varie parti del corpo, i vari organi dell'uomo. Quindi ogni pianta, ogni sostanza veniva classificata in termini di caldo, freddo, umido, secco. Queste quattro caratteristiche che riflettevano i quattro umori, no? I quattro umori dell'organismo umano. E in base alle sue caratteristiche si voleva che avesse determinati effetti sul corpo. Per cui una cosa calda, su un temperamento, una persona dal temperamento freddo aveva determinati effetti, su una persona dal temperamento caldo, umido, aveva altri effetti, eccetera, eccetera. Quindi ogni sostanza, in base alle unità che gli venivano assegnate, alla classificazione che ne veniva fatta, aveva determinate, si postulava un determinato effetto su determinati temperamenti umani, sempre definiti in base alle solite quattro categorie. Per cui si crea un dibattito enorme, voi non ci crederete, ma fra il 500, il 600 e il 700 escono più o meno 300 testi che hanno nel titolo cioccolato, caffè, tabacco, l'opportunità di consumare il cacao. Qui non si sta parlando di una cosa che non interessava, che è così in qualche modo di poca importanza, ma è una cosa che occupa tantissimo gli studiosi, perché appunto lì si intrecciavano tantissime cose. C'è un problema scientifico, appunto, dove colloco io queste sostanze che manco dovrebbero esistere, queste piante, cioè ogni pianta del nuovo mondo veniva ricollocata come simile a una europea, no? La si metteva in una famiglia europea, bisognava trovare una famiglia in qualche modo, perché cioè, non è possibile che ci esista qualcosa al di fuori di questa categoria, di tutte queste categorizzazioni esistenti. Questo poneva il problema nel caso del cacao, per esempio, se fosse caldo o freddo, quindi che effetto facesse. E soprattutto se fosse un cibo o una bevanda. Il cacao è un cibo o una bevanda. Perché gli interessava tanto? Gli interessava tanto perché questo è un morale, sia il cioccolato che bevanda, era l'aiuto ecclesiastico. Perché all'epoca una questione fondamentale è se c'è la quaresima e se c'è il digiuno quaresimale, il cioccolato è una bevanda. È un cibo e quindi i nobili e coloro che lo consumavano all'epoca possono o non possono consumarlo. Questa è una cosa che occupa centinaia di pagine. Voi pensate che questo trattato qui, questo è un morale secolare che il cioccolato che brante l'aiuto ecclesiastico, sono 230 pagine, per darvi un'idea, insomma, da scrivere ce n'era. Ma perché? Cioè, perché vi sto qui a raccontare di questa querela scientifico-morale e in qualche modo poco interessante per chi non si occupa del 600 fondamentalmente? Perché non è solo quello. Perché nel 700 la medicina, soprattutto poi col procedere soprattutto nel 700, la medicina assume, la medicina e il dibattito pubblico sulla medicina assume un ruolo di regolazione sociale. La medicina va a regolare chi può consumare cosa, quanto, come. Le prescrizioni mediche assumono un valore fortemente sociale. Non per nulla, dopo aver discusso un secolo, se il cacao era freddo, era caldo, il cioccolato è freddo, è caldo. Allora, nel 700 la questione si risolve molto tranquillamente dicendo che il cioccolato è temperato. È fantastico. Per cui il cioccolato è temperato, a seconda di come lo bevi, a seconda di cosa ci metti dentro, a seconda di chi lo consuma, a seconda di quando lo consuma, diventa caldo, quindi nefasto o buono per la salute. Quindi, e anche questo è un aspetto, insomma, se avete voglia, se vi interessa, ci torniamo dopo, però è questa la rilevanza sociale. Se voi guardate i dati, nel corso del 700 le importazioni di cacao crescono abbondantemente e quindi nel giro di un secolo e mezzo il cacao diventa, il cioccolato insomma, diventa da una curiosità proprio quella che noi oggi chiamiamo una commodity, cioè proprio un bene di consumo. La socialità aristocratica del secolo precedente aveva dato in qualche modo in un secolo e mezzo lascia il posto a una società nella quale il cioccolato veniva sì comunque percepito come un prodotto di serie lusso, ma anche desiderato e consumato almeno occasionalmente dalla gran parte della popolazione. Cos'è successo in questo secolo e mezzo? È successo che una serie di fattori interrelati ne hanno determinato il suo cammino. Politiche coloniali, l'organizzazione dell'economia atlantica, il pensiero scientifico, medico. Ora io qui anche su questo è un aspetto su cui se qualcuno è interessato ci torniamo molto volentieri dopo, però soprattutto se qualcuno è interessato a tematiche di fair trade o comunque di configurazione dei mercati internazionali ci torniamo assolutamente. Qui vi mostro soltanto due piccole slide, una è dove veniva coltivato il cacao, no? nel corso dei due secoli. Nel periodo precolombiano il luogo di coltivazione del cacao è fondamentalmente il Centro America. Nel corso del 600 il Venezuela e l'Ecuador emergono come i due produttori mondiali più importanti di cacao. L'Ecuador più successivamente nel 700 e poi diventerà quello principale nell'Ottocento. Qui c'è uno spostamento dal Centro America fino al Sud America, no? E le due grandi aree di produzione fino all'Ottocento, quindi fino al trasporto dei semi del cacao in Africa, sono fondamentalmente il Venezuela e l'Ecuador. E questi sono i traffici. Vedete in nero lì, non so, spero si legga. La Spagna nel corso del Settecento crea quella che si chiama la Compagnia Guipuscoana, che è una compagnia monopolista. Visto che nel corso del secolo precedente fondamentalmente erano gli olandesi i padroni del commercio del cacao, fondamentalmente attraverso il contrabbando, nel corso del Settecento la Spagna crea una compagnia monopolista, che è la Compagnia Guipuscoana, che gestisce il commercio del cacao. Invece poi c'è l'altra rotta, quella del cacao Guayaquil, che appunto si sviluppa dopo. All'inizio il cacao dell'Ecuador va tutto verso il Messico e poi invece comincia a girare intorno all'America del Sud e a raggiungere l'Europa man mano che cresce la domanda. Ora, visto la prospettiva del laboratorio è quella del cibo, io, dopo aver detto tutte le cose su cui non mi focalizzerò, magari vi dovrei dire anche che cosa nei prossimi 10 minuti che rimangono, visto che mi faccio le pucce da sola e ho già preso troppo tempo, un quarto d'ora, via, abbiate pazienza, ancora un quarto d'ora e poi basta. Dopo aver detto tutto quello di cui non parlerò, cioè o comunque non approfondirò, di che cosa allora mi piacerebbe parlarvi, visto che appunto un piccolo intervento di un aspetto che secondo me per voi può essere più interessante. Volevo ripercorrere la traiettoria del cacao cercando di mettere in luce, da una parte, come ogni trasformazione nella cultura culinaria del cibo corrisponda a un'evoluzione nelle tecniche di produzione, a un'evoluzione economica e a un'evoluzione di relazioni sociali e anche a un cambiamento di gusto. Però mettendo in evidenza come il cibo sia espressione di un cambiamento, ma sia anche agente di cambiamento. Cioè, è una conseguenza, ma che poi ha anche provoca tutta una serie di conseguenze inattese. Quindi cercando di farvi mettere in relazione questi due aspetti. E poi soprattutto mi piacerebbe introdurre l'idea del fatto che il significato di un prodotto è in costante divenire, transizione. Cioè, come il prodotto non ha un significato, un prodotto viene riempito di significati culturali e sociali. E mi piacerebbe farvi vedere e mostrarvi come questo processo alimenti la sua diffusione. Mi piacerebbe spezzare un po' la linearità di quell'idea che la parola diffusione comporta, no? Quella un po' della macchia d'olio. Pensare a un punto che a macchia d'olio si diffonde e anche a quelle idee alimentate fin dal Settecento, perché le ritroviamo anche nei trattati del Settecento. In fondo questo penso faccia un po' parte della cultura, cioè diciamo di un'idea che un po' tutti hanno, che hanno letto, che è stata riportata, questa dicotomia fra il caffè che era borghese, il cioccolato che è il prodotto dell'ozio, il nord Europa borghese, protestante, produttivo, il sud dell'Europa invece l'ansia al regime, il cioccolato, i nobili, la staticità sociale, eccetera, eccetera. No? Sono un po' tutto me lo immaginare un po' weberiano, un po' che è entrato poi a far parte del senso comune. E mi piacerebbe spezzare un po' questa idea per mostrarvi come invece i processi di appropriazione e di diffusione di un prodotto siano molto più complessi. Perché se noi vogliamo capire l'evoluzione del contesto sociale e delle motivazioni dietro al consumo del cioccolato, dobbiamo innanzitutto abbandonare l'idea che un prodotto abbia un'identità unica. Cioè, questo tipo di discorsi, il caffè è borghese, il cioccolato è nobile, il cioccolato è ozioso, il caffè è produttivo, sono discorsi che presuppongono che un prodotto abbia un'identità ben definita e che il prodotto definisca il consumatore. Cioè io consumo questo prodotto e quindi divento, sono questa cosa. Invece di fare fondamentalmente il processo opposto, cioè quello che io vi propongo, sono i consumatori che danno, così, appropriandosi del prodotto, danno un significato ad esso. Quindi non mi interessa qui stabilire la vera identità del cacao, quello che mi interessa farvi vedere è come questa fosse combattuta, come fosse in costante transizione, in costante evoluzione. Allora, uno dei primi effetti di questa transizione, per esempio, sì, guarda, qui vi facevo vedere fondamentalmente, no, questo lo tralasciamo, degli effetti precoci di questa transizione è la trasformazione della ricetta del cioccolato, per esempio. Quando gli spagnoli arrivano nelle Indie, il cioccolato, il cacao, la pasta di cioccolato era un composto molto basilare di cacao arrostito, no? Di cacao seccato, fatto arrostire, schiacciato e fatto in piccoli panetti a forma rettangolare. A questi veniva aggiunta tutta una serie di spezie che erano tipiche proprio dell'America centrale. Questo è il cioccolato che in qualche modo si diffonde nel primo periodo anche in Europa, nel 600, e si diffonde attraverso una serie di circuiti nobiliari. All'inizio il consumo di cioccolato era un consumo assolutamente transnazionale, no? Attraverso l'Europa, però socialmente si muove attraverso circoli transnazionali ma nobiliari. Cioè, lo consumano, ecco, i nobili si creano un circuito che è fondamentalmente transnazionale ma che è ovviamente assolutamente limitato socialmente. Okay? Quindi il cioccolato diventa dono privilegiato, si trovano lettere di ti invio in dono la scatolina di cioccolato, la scatolina di cacao, eccetera, eccetera. Si inventano ricette, le famiglie rivaleggiano sulle ricette migliori e il cioccolato si prepara fondamentalmente a casa. Cioè viene un cioccolatero a casa a preparare per ogni famiglia, per ogni famiglia nobile, il proprio cioccolato a suo gusto, quindi con gli ingredienti che la famiglia sceglie. Ma in questa transizione attraverso l'Atlantico qual è l'ingrediente fondamentale che viene aggiunto? Zucchero. La colonizzazione del cacao è l'aggiunta del cioccolato, è l'aggiunta dello zucchero, fondamentalmente. Perché? Perché lo zucchero è il simbolo della civilizzazione, non per nulla. After having enlightened them with the gospel, being more industrial than the savages, they corrected the bad taste of the beverage by adding certain drugs from the metropolis, especially sugar. Cioè gli spagnoli cosa fanno? Salvano, essendo molto più industriosi, no? Cioè molto più industriosi dei selvaggi, redimono il cattivo gusto della bevanda aggiungendoci lo zucchero. Perché lo zucchero è proprio un simbolo, innanzitutto della tecnologia europea, perché lo zucchero viene estratto. È un simbolo della tecnologia, della colonizzazione e della superiorità europea, e quindi è un simbolo di civilizzazione. Ora, mentre il cioccolato, il consumo di cioccolato cresce nel XVIII secolo, all'inizio del XVIII secolo, avvengono due fenomeni che riguardano sia la composizione sia la sua circolazione. Da una parte, in quanto a composizione, io ho una standardizzazione, non c'è più il cioccolatero che viene a casa, ma nasce quella che è un'industria artigianale del cioccolato in Spagna. In questa transizione non ho più appunto la pasta di cioccolato venduta così non lavorata in qualche modo senza l'aggiunta di ingredienti, ma ho una produzione standardizzata di panetti di cioccolato composta da tre ingredienti fondamentali, dove spariscono tutte le spezie esotiche, fondamentalmente tipiche e non riproducibili dell'America centrale, e rimangono soltanto cacao, zucchero, cannella. Questo è il cioccolato spagnolo, e questo è anche il cioccolato che sarà, che sono fondamentalmente gli ingredienti fondamentali del cioccolato oggi, a parte la cannella che poi è diventata molto più opzionale. Ma perché questo, che significato ha questo processo? Perché all'interno di questo processo c'è anche un processo di identificazione culturale, per cui il cioccolato diventa una parte fondamentale dell'autorappresentazione della Spagna. Questo non vuol, quando io vi dico il cioccolato diventa spagnolo, intendetemi, non vuol dire che i contemporanei non sapessero che il cacao veniva dall'America. Significa che erano perfettamente coscienti che il cacao venisse dall'oltreoceano, ma una cosa è il cacao e una cosa è il cioccolato, punto. È il cioccolato che assume una forma civilizzata, il cioccolato europeo diventa il cioccolato spagnolo, perché gli spagnoli lo hanno civilizzato e portato all'Europa. E diventa talmente parte della loro rappresentazione che, appunto, come potete leggere qui, no, mancare di cioccolato a casa degli spagnoli è come essere ridotti a un tale punto di povertà che tipo mancare, come se mancasse il pane a casa nostra. E questa viene dall'enciclopedia. L'enciclopedia è il testo più importante praticamente del Settecento francese, un testo onnicomprensivo, insomma, redatto, dove alla voce del cacao inizia così. Oppure, appunto, questo tipo di identificazioni più, diciamo, più letterale, no? Il bene superiore per gli spagnoli, a dormire al caldo, vedi, tutte queste in qualche modo rappresentazioni stereotipiche. Dormire durante il caldo, dormire quando fa caldo, respirare al fresco e mettersi al sole e mangiare cioccolato, bere cioccolato, fare l'amore e assistere alle processioni e alle cerimonie della chiesa. Non è molto distante dall'idea degli spagnoli, sì, dall'idea stereotipica dello spagnolo che si tramanda finora, quindi molte cose si ritrovano. Quindi la socialità che noi troviamo nel Settecento spagnolo, qui vedete sono varie diversi dipinti, questa una è la cioccolatada, è un bellissimo pannello di azulejos, sono delle ceramiche, le piastrelle, che è tipico della parte est della Spagna, che ci fa vedere proprio, appunto, una cioccolatada. C'è un evento dove viene preparato il cioccolato, un evento pubblico in piazza dove viene preparato il cioccolato di coloro che ci partecipano. Però cosa succede durante il Settecento? Mentre se da una parte l'emergere della Spagna, dell'industria del cioccolato spagnolo, va di pari passo a una pretesa qualità e civiltà del cioccolato spagnolo, nel XVIII secolo, vediamo nel corso del XVIII secolo, soprattutto nella seconda metà, mentre gli imperi collidono sull'Atlantico, vediamo che ognuna delle emergenti nazioni industriali comincia a competere con la sua versione, diciamo, del prodotto. Per cui se prima il cioccolato spagnolo veniva internazionalmente in tutta Europa ritenuto il più buono, qualcosa comincia a cambiare. Non è solo quello che vi ho i testi, soprattutto che vi andrò a mostrare, vi susciteranno sicuramente molti sorrisi, ma è importante andare a vedere come la battaglia culturale a suono di stereotipi che si combatte nell'area pubblica non è una battaglia che non ha riflessi economici, cioè è fondamentalmente un conflitto economico imperiale che si ha sulla produzione e sull'appropriazione di determinati prodotti, e l'appropriazione economica e culturale vanno di pari passo. Quindi questo mi piacerebbe mettere in luce. mentre appunto queste tre potenze in particolare sono in collisione sull'Atlantico, proprio tutta la cultura culinaria che in qualche modo sente l'effetto di queste tensioni tra continuità e rottura, e per noi peraltro tenendo in conto appunto anche proprio la contraddizione che segnalavo prima fra un'elite europea che ha in qualche modo un gusto comune e invece una crescente definizione delle differenze nazionali in termini di cibo e di gusto. E paradossalmente possiamo dire che il cioccolato era più diffuso geograficamente nel 650 che non nell'800, mentre nel 1650 lo consuma tutta l'Europa, ne consuma molto meno, ma lo consuma tutta l'Europa. Nel 1800, se io vado a vedere, il 95% del cioccolato viene consumato in Spagna, il 95% del tè viene consumato in Inghilterra, il 95% del caffè, cioè il 90% del caffè, le ultime due, la prima è reale, le altre due sono, cioè sono la maggior parte, scusate, perché non usiamo una percentuale se uno non ce l'ha. Nel caso del cacao, veramente il 95% del cacao viene, il cioccolato viene consumato in Spagna, la maggior parte del tè viene consumato in Inghilterra e del caffè viene consumato in Francia. Qui vi mostro una serie di testi per farvi vedere quello che vi dicevo, no? Come cambia in qualche modo il discorso sul cioccolato. Questi sono alcuni piccoli. Uno, sono due testi in traduzione. Uno è il trattato di Bienville. Bienville è uno dei medici più importanti francesi, più importanti del Settecento. E nel suo trattato sulla linfomania, che all'epoca era una malattia, lui tratta a lungo del cacao. Io ne sono andata a ricercare tre versioni, perché ovviamente il cioccolato è un eccitante, quindi cioccolato e caffè finiscono in un trattato sulla linfomania perfettamente. E nelle tre versioni, in spagnolo, in francese e in inglese, si ritrovano tutta una serie di, soprattutto in quella inglese, sono andato a prendervi quella inglese, si ritrova una serie di differenze interessanti che ci fanno vedere questo tipo di conflittualità. Come vedete, lui questa è la versione inglese, quindi la terza traduzione, no? Il cioccolato spagnolo è il più pesante di tutti, non solo il muschio e varie droghe che vengono mischiate adesso, ma anche una quantità di cannella, cioè, che lo rendono assolutamente infiammatorio. Il cioccolato parigino è molto meno pericoloso. Parentesi quadra, aggiunta con nota del traduttore, il cioccolato inglese, a cui si aggiunge soltanto vaniglia e zucchero, è assolutamente il più innocente. Questo è il tipo di battaglia discorsiva che si ritrova in tantissimi testi nella seconda metà dell'Ottocento. Cioè un discredito culturale dell'altro e una stereotipizzazione dell'altro basata solo sul consumo di alcuni cibi e, o meglio, sulle modalità di consumo di alcuni cibi. L'altro è un testo si riferisce più all'Inquisizione, insomma, e quindi ci racconta la storia di questo prete spagnolo lascivo, insomma, che corrompe le donne, eccetera, eccetera, e la via per la perdizione di queste donne rapite dall'Inquisizione, tenute per il piacere dei preti dell'Inquisizione in questa specie di fortezza, insomma, questa storia che poi alla fine è liberata dal soldato francese, ovviamente, la protagonista del testo. La via è pavimentata di cioccolato, nel senso proprio, se leggete qui, quando Mary venne col cioccolato mi vergognavo di farmi vedere nel letto con lui, ma lei venne accanto a me, si trattò come una regina, mi servì una coppa di cioccolato, una tazza di cioccolato, eccetera, eccetera. C'è cioccolato ovunque in questo testo, perché il cioccolato diventa il simbolo, è qui che si attua quel meccanismo di cioccolato che diventa il simbolo della perdizione. Per cui, da una parte, in qualche modo c'è, da una parte si discredita l'originale spagnolo e dall'altra si propongono nuove ricette. Come vedete, alcune sono anche in qualche modo interessanti, perché pensare che ricette francesi di fine del Settecento, si voglia mettere dell'uovo a volte, del cioccolato, berlo con l'uovo, berlo con... anche se molte sono il cordiale, oppure solo acqua al posto del latte, oppure una serie di almonds, quindi mandorle, eccetera eccetera, vaniglia, hanno tutta una serie di ingredienti che fanno parte di tutta una serie di sperimentazioni che caratterizzano la nascita delle diverse industrie del cioccolato, no? Cioè è un processo che è economico ed è culturale, è un processo di discredito del cioccolato più buono. Il cioccolato più buono diventa una lotta che ovviamente si attua nel momento in cui si lotta sull'Atlantico per il controllo delle colonie e quindi della produzione del cacao. E in Europa si dà atto alla nascita di più industrie di lavorazione del cacao in competizione. E qui chiudo. Allora, partendo con una brevissima conclusione, partendo dal presupposto di un processo di manipolazione da parte del produttore, da parte di chi pubblicizza, di chi vende, del consumatore, che influenza il significato di un oggetto, allora noi dobbiamo, arrivando a postulare che il significato degli oggetti sia continuamente in transizione, la novità e la conseguente rarità dei prodotti coloniali, che era stata la principale caratteristica del 600, nel corso del secolo successivo in qualche modo va a perdersi, cioè no? Un'appropriazione completa da parte delle varie nazioni europee, che dipende anche dalle gerarchie interne all'interno dell'Europa. E quindi c'è lo sviluppo di nuove forme di lusso, di nuove forme di moda che mettono in gioco l'abilità delle varie economie nazionali di assorbire questo fenomeno. Mentre il secolo avanza, il contrasto fra quelli che favorivano e quelli che condannavano la differenziazione dei beni di consumo, la popolarizzazione dei beni di lusso, viene sostituita da una maggiore moderazione. E nel caso di questo tipo di beni è proprio la medicina, no? Che in qualche modo va a agire come regolatore sociale, concilia la moderazione, il piacere, gli interessi economici e l'ordine sociale, no? Ci dice chi può consumare quanto, come. Quindi fondamentalmente la medicina introduce la distinzione fondamentale fra uso e abuso. Non è più soltanto, il problema non è se utilizzare o no una cosa, ma è cosa è l'uso, come si definisce l'uso e come si definisce l'abuso. L'enfasi sugli effetti stimolanti del cioccolato, la similarità dei suoi rituali con quelli del caffè, del tè, lo portano, lo distanziano da altri prodotti come il tabacco, come la coca, che sono simili per provenienza, mentre il tè e il caffè non lo sono, e per portarlo però accanto a questo tipo di prodotti, cioè mentre prima i tre prodotti che trovavamo nei trattati erano il caffè, erano il tabacco, la coca e il cacao, andavano sempre insieme perché erano tutti prodotti che venivano dalle Americhe, quando arriviamo alla fine del Settecento la triade, la famosa triade, che era un po' quella che facevo vedere qui, è quella del caffè, del tabacco, è quella del cioccolato, del caffè e del tè. Qui è sbagliato, scusate, è sbagliata proprio la dicitura. Questo è un altro trattato, e ci sono, vedete, i tre uomini vestiti nei tre modi diversi, caratteristici delle tre culture di provenienza del caffè, del cioccolato e del cacao. Per cui c'è l'indigeno, c'è l'orientale, c'è il cinese, no? Per cui c'è questa in qualche modo divisione culturale. E i diversi poteri imperiali incoraggiano il consumo, incoraggiano attraverso le rappresentazioni culturali il consumo di questi prodotti nelle loro nazioni proprio in maniera speculare agli interessi economici coloniali. Per cui le battaglie rappresentative che prima in maniera così molto leggera vi presentavo fanno parte di prime, sono quelle che sono le prime forme anche di pubblicità, sapete, che poi infatti nell'Ottocento si svilupperanno esattamente come tali. Quando non c'era la pubblicità, è il dibattito pubblico, è il dibattito medico, è il dibattito sul lusso, sono questi tipi di dibattiti che vanno a alimentare il consumo di certi prodotti. È la letteratura che va a alimentare il consumo di certi prodotti a scapito di altri, in base agli interessi appunto economici e coloniali delle diverse nazioni. E qui mi fermo e lo so, ci ho messo 20 minuti di più di quello che avevo promesso. E quindi potete tornarmi tranquillamente. E quindi qualunque aspetto, insomma, domanda vi possa interessare, perché anche il soggetto è veramente ampio, per cui cioè, le cose che si vanno a toccare sono tantissime, quindi ho cercato in qualche modo di andarne a toccare tante per stimolare un po' la vostra curiosità, darvi una serie di informazioni e poi rispondere a quelle che possono essere invece le cose che vi interessano di più. Allora, io non so se sono un laboratorio, ma ti chiedo, dopo che hai preso fiato, un piccolo flash sul consumo invece in ambiente coloniale. Nell'ambiente coloniale, nella lega spagnola. E che cosa succede là? Che dinamiche appunto, sociali, pratiche sociali di differenziazione si attivano? E quali sono i grandi centri di consumo e quali anche dinamiche di produzione in relazione a questi bisogni si attivano? Altre domande? Non fate per quello. Soffrire, già non sono riuscita a vedere più curiosi. Così. Così. Questo è più legato ai consumi di oggi. Allora, il cioccolato di Magica, che è famoso in Italia, deriva, se non sbaglio, da una tecnica di lavorazione a freddo praticata in Spagna, giusto? No, in America Centrale. Ah, in America Centrale. Ecco, questo tipo di pratica è diffuso in qualche altra zona, non qui necessariamente, ma anzi, non qui è fatto, ma in Europa e allora in America, se da lì che arriva. Sì. Ok. Altre cose? Con una serie di domande, così non sto a... o comincio a rispondere. Io poi te ne faccio un'altra, così... Allora, fammi un'altra. E poi dopo... dopo alla fine di queste risposte l'aspetto dello spostamento in Africa, perché oggi appunto, e questo è un elemento importante per arrivare all'oggi, c'è stato un attraversamento dell'Atlantico e tutto il problema di paesi che vivono sostanzialmente. Sì, ce lo vedo le famiglie lì. Ok, allora, il cioccolato di Modica è una lavorazione azteca, cioè va a riprendere, ora poi non sono più. So dire moltissimo più di questo, nel senso che non mi sono mai occupata di... Però il cioccolato di Modica è fondamentalmente, io non so di essere anch'io. Allora, io che considerando, io direi questo, considerando che il sud dell'Italia è fondamentalmente tra borbonico, quindi i miei possedimenti spagnoli, io credo che la tecnica, non so quanto sia recente, mi sono sempre chiesta infatti se sia una bufala culturale o se abbia veramente un'origine antica, cioè antica non più del Settecento. Però appunto la lavorazione a freddo è una lavorazione che è quella del Centro America, quella mesoamericana, proprio amerindia, pre-spagnola. E non so, che sicuramente il canale di arrivo è probabile che sia quello della, non so, credo sia Spagna-Sicilia. Ma non so quanto forse sia stato anche probabilmente una ripresa proprio novecentesca, no, però non voglio dire, però secondo me è una ripresa novecentesca, probabilmente, non so se ha reali origini davvero, cioè del periodo coloniale, è molto probabile sia più un'invenzione in qualche modo. Mentre per esempio un cioccolato famosissimo all'epoca era il cioccolato fiorentino. E poi il torinese, cioè quelli perché erano cioccolati che al gelsomino, cosa che nessuno ad oggi consumerebbe, però il cioccolato al gelsomino era, anche perché all'epoca considerato che fino all'Ottocento il cioccolato non era stata inventata la macchina che lo pressava e lo divideva il burro di cacao dal cacao, per cui il cioccolato era un prodotto grassissimo, una roba, quindi ci stai in piedi una settimana. Per questo tutto anche la discussione quebranta o non quebranta e l'aiuto ecclesiastico, perché era una cosa, cioè, voi avete mai visto un panetto di burro di cacao? No? Ecco, se praticamente dalla pressa che va a lavorare i semi del cacao, quasi metà del prodotto che viene separato è burro, cioè del cacao, la fava del cacao è così, se si apre, l'avevo fatto vedere prima, dentro ci sono una serie di semi che sono seccati, che sono quelli che poi vengono pressati e lavorati, metà di quella pasta è burro, è grasso, puro grasso. E fino all'800 non c'era una macchina per separarli meccanicamente, per cui entravano tutti a far parte della produzione di quello che vengono, non so, cioccolato caldo oggi. E poi allora il consumo nell'America coloniale. Allora, nell'America coloniale il grande consumatore di cacao è il Messico. Era il Messico. Era l'America centrale, era Ciudad de México, e però c'è un piccolo problema che si verifica lì, cioè cosa succede, e che è molto importante per capire tutte quelle dinamiche, insomma, il potere economico che si sono poi sviluppate nei secoli successivi. La popolazione amerindia va a morire, la coltivazione del cacao anche, appena arrivati gli spagnoli, non basta più per rifornire una popolazione in incredibile crescita, anche perché il cacao non è uno solo, cioè tante varietà. La varietà che Soconusco si chiama, che era quella del Centro America, che era la più rara, ad oggi praticamente introvabile, non aveva una produttività tale da poter sostenere dei ritmi di produzione, quindi si prende e si abbassa la produzione, si va a produrre nella zona del Venezuela. Gli spagnoli vanno a produrre nella zona del Venezuela e un'altra produzione di un cacao però ancora di minore qualità, che si chiama criollo, che è il cacao, che si chiama forastero, che è il cacao che mangiate voi, che mangiamo noi, e che non c'entra nulla neanche col cacao degli spagnoli, che ha proprio tutto un altro gusto. Perché il cacao forastero, che era quello dell'Ecuador, era produttivo, molto amaro e c'era bisogno di un sacco di zucchero, però produceva un sacco. Il cacao criollo produceva pochissimo, era naturalmente dolce, aveva bisogno di pochissimo zucchero ed era di grande qualità. Il cacao, questo tipo di cacao, il cacao criollo di grande valore, era quello che veniva trasportato, è quello che caratterizza il traffico atlantico fino all'inizio dell'Ottocento, quello che vivevano gli spagnoli, i coloni. E che riforniva il mercato centroamericano. La dinamica diversa rispetto all'Europa è che in America abbiamo una... Allora, vediamo se riesco a farvi capire una cosa su come si sviluppa il commercio globale, che si applica anche oggi. C'è una specie di triangolo, che è questo. Allora, fondamentalmente succede questo: il cacao presente nel Centro America non basta. In Centro America cresce esponenzialmente la domanda cresce in tutti gli stati, in tutti gli stati della popolazione. Perché? Perché gli stati della popolazione bassa erano soprattutto di origine amerindia o mista, e sono quelli che prima ancora dell'arrivo degli spagnoli consumavano il cacao. Quindi tutta la popolazione nelle colonie consuma cioccolato in quantità abbondantissime, tanto che poi nascono terribili questioni, immagino che vi colpiscano terribilmente, tipo: ma possono le donne bere il cioccolato in chiesa? È una cosa decente? No, non è decente. Oppure quella che avvelena il prete col cioccolato, perché il cioccolato era famoso come luogo per nascondere veleni. Le Indie, le Amerindie terribili, esotiche e pericolose, nascondevano il veleno nel cioccolato e avvelenavano i loro amanti. Allora, questa è ovviamente qualcosa di vero c'era, ma era la leggenda in qualche modo, no? che si tramandava. Per cui, grandissimo consumo nel Centro America, il cacao non basta, quindi il cacao comincia ad andare, si coltiva nella zona del Venezuela e va verso l'America centrale, quindi che stimola la produzione. Nel frattempo comincia ad andare verso l'Europa, cresce il consumo in Europa esponenzialmente, si fa una compagnia monopolista che quindi mantiene l'ordine in Venezuela con le armi e assicura che tutto il cioccolato, tutto il cacao giunga in Europa per essere commercializzato. Questo toglie al Messico, alla parte dell'America centrale, la sua produzione di cacao e provoca che il cacao di minor qualità che viene dall'Ecuador, ma che è molto più produttivo, vada verso il Centro America, okay? Anche se era proibito il commercio, però viene contrabbandato comunque perché la domanda è talmente forte in Centro America che quel cacao comunque arriva. Quindi la dinamica di consumo lì qual è? È che il consumo e le modalità di consumo si differenziano. Cioè, quando sparisce la dinamica di accesso a un prodotto, ma questo è tutt'oggi, cioè, come cosa si fa? Si reinventa il lusso. Non è più se io posso o non posso accedere a un prodotto, ma è come lo consumo quel prodotto. Per cui il cacao criollo consumato in determinate maniere diventa nel Centro America il prodotto di lusso, mentre il cacao forastero che viene dall'Ecuador diventa prodotto per tutti. Il punto qual è? Che in realtà la dinamica la dinamica regionale, il commercio regionale, va a influenzare la diffusione mondiale del cacao. Perché il cacao produttivo dell'Ecuador, la cui produzione viene stimolata dal Centro America, sarà quello che poi si diffonderà in tutto il mondo. Perché nel momento in cui la domanda in Europa cresce, la zona del Venezuela ovviamente e il cacao criollo non ce la fanno produttivamente, non ce la fanno a soddisfarla, e quindi l'Ecuador diventa il principale produttore mondiale di cacao per tutto il corso dell'Ottocento. Finché appunto, per collocarsi a quello, per cui questa dinamica domanda-offerta è una dinamica complessa che si influenza a vicenda, perché la domanda del Centro America ha fatto sì che si sviluppasse un'offerta per l'Europa. Cioè una dinamica di consumo regionale, di consumo e di commercio regionale vi va a influenzare quella che è la dinamica poi globale. Lo spostamento in Africa appunto avviene, come dicevo prima, nel momento in cui le potenze coloniali perdono le colonie in America, perdono quindi l'accesso monopolistico alla commercializzazione di questi prodotti. Quindi il cacao che cosa fa? Si fanno viaggiare i semi del cacao nelle nuove colonie, nei possedimenti soprattutto della Guinea Bissau, della Nuova Guinea, che sono possedimenti fondamentalmente che erano rimasti, cioè in realtà la Spagna ce li aveva da parecchio, però li aveva lasciati completamente morti, e trapiantano lì il caffè, il cacao e tutta un'altra serie di prodotti, ma in primis il cacao, anche perché lì hanno la manodopera. E lì, e questi prodotti, zucchero, cacao, perché si parla molto spesso dello zucchero, ma non è solo zucchero, fondamentalmente agiscono da stimolo, da motore per la seconda ondata, si può chiamare il secondo periodo dello schiavismo in Africa, nella seconda metà dell'Ottocento, fondamentalmente atto a coltivare esattamente questi prodotti, e che è quello anche che ha permesso di renderli prodotti con la diffusione globale che hanno oggi, cosa che non sarebbe stata possibile nei nuovi stati nazioni dell'America, perché tutte le dinamiche sociali e economiche di queste aree non avrebbero più permesso un tale sviluppo intensivo di quella coltivazione di determinati terreni, mentre le dinamiche di lavoro e le configurazioni lavorative dell'Africa lo permettevano. Basta, ho detto, anche no. Ci sono altre domande? Sì, un po' poco, no? Cioè nel senso che vabbè, intanto quando è che finisce il monopolio della compagnia iniziale, cioè spagnola? Nel 1778 finisce insieme a tutti i monopoli, cioè vanno a decadere tutti i monopoli spagnoli, infatti vede le importazioni. Sì, ora non ce l'ho qui delle slide sui prezzi, ma ci ho lavorato un po' di tanto in realtà. cioè nel senso che si ha una diffusione del consumo perché c'è un abbassamento. Allora, è molto interessante questo aspetto qua in realtà, che ti va proprio a far vedere, poi io prima non ne ho parlato qui, però un anello che era emerso nel lavoro di ricerca che avevo fatto come fondamentale è spesso si guarda queste dinamiche tra offerta e domanda a livello, soprattutto per prodotti coloniali, molto difficile perché tu hai un commercio di lunga distanza, qua hai un prezzo al quintale, alla tonnellata, e hai tutta una serie di dinamiche molto complesse dal punto di vista del commercio internazionale, dal punto di vista delle politiche atlantiche, cioè delle politiche economiche e dell'economia politica che si porta avanti a livello atlantico, e poi anche un livello minimo, un livello del consumatore che è quello piccolo a Madrid nel Settecento, come nel 200, quando vuoi. Un anello che per me era risultato fondamentale per capire dove si attua la popolarizzazione, cioè cosa permette la diffusione del consumo lungo la scala sociale, era proprio l'industria artigianale del cioccolato. Perché cosa succede nel corso del Settecento? Si sviluppa questa industria artigianale, per cui c'è una meravigliosa storia del tentativo, peraltro fallito, della corporazione dei cioccolatieri di Madrid, no? Per tutto il Settecento provano a costituirsi come corporazione e quindi attraverso generano una quantità di documentazione sulla così data dei loro tentativi che a me ha dato una quantità di impagabile di informazioni sui prezzi, su come generano tutto quanto. Quello che si vede è che più che non c'è una dinamica di abbassamento del prezzo, c'è una dinamica di differenziazione, è lì che avviene la polarizzazione. Questo si vede sia innanzitutto l'arrivo sempre maggiore del cacao dall'Ecuador, ma quello è conseguenza della liberalizzazione, comincia ad arrivare in grandi quantità nel momento in cui sparisce il divieto, perché poi con la liberalizzazione e la fine dei monopoli sparisce il divieto. Ma perché arriva in grandi quantità? Perché c'è già una domanda. Infatti in realtà questo picco che vedi nelle importazioni è un po' falsato, nel senso che io posso avere, ho fatto una serie di stime che prendevano in considerazione anche il contrabbando, ma purtroppo non abbiamo dati sul contrabbando, quindi cioè il picco è giustificato non solo dal fatto che con la liberalizzazione arriva più cacao, ma che più cacao arriva in chiaro, cioè prima non contrabbandato, per cui è un picco un po', diciamo, che va ridimensionato, in realtà ne arrivava molto di più prima, per cui e dal punto di vista del prezzo, quello che tu vedi, la dinamica è davvero interessante, non la trovi a livello atlantico, nelle fluttuazioni del prezzo a livello atlantico, a livello di commercio internazionale, ma la trovi a livello appunto di industria artigianale, perché cosa succede? Innanzitutto nel corso del Settecento, aumentando la domanda, le autorità, proprio trovi riferimenti nei documenti, si cominciano a preoccupare che il pubblico possa accedere al consumo di cioccolato. Cioè, c'è domanda come si fa a soddisfarla. E tu trovi che i cioccolatieri che cosa fanno? Introducono qualità diverse di cioccolato, a diverso prezzo. Fanno due cose. Una, introducono qualità diverse, quindi composizioni diverse. In una c'è un tot di cacao, un tot di zucchero, un tot di cannella, in una in un'altra c'è un tot a vari prezzi. Permane il prezzo più alto, rimane quello della qualità maggiore, e poi se ne fanno qualità più basse. Per cui è una dinamica complessa dove, cioè, non c'è uno che prevale sull'altra, cioè si va incontro a una domanda, e questo lo confermano proprio i documenti delle autorità, e allo stesso tempo si stimola abbassando, cioè dando le qualità. E poi l'altro intervento grosso che fanno è la differenziazione in quantità. Tu prima del 1770 non troverai mai una lista dei prezzi che abbia delle quantità diverse dal pound, dalla libra, perché si vendeva una libra, però se fanno tante tazze di cioccolato. La libra la compra la famiglia benestante, la libra la compra chi ha un consumo costante. Mentre in quel periodo allora vedi che compare la mezza libra, la, quantità ancora inferiore e soprattutto la tazza. Si comincia a vendere le tazze, perché il giornaliero non si può permettere di comprare una libra, non sa mai fare perché costa un mese il suo stipendio, ma si può permettere di comprare una tazza una volta al mese. Quindi è questa la dinamica che è particolarmente interessante, ti fa vedere come c'è certo una dinamica dei prezzi, ma non è una dinamica che origina sul... Se si guarda i prezzi del cacao, il prezzo del cacao va così, il prezzo del cioccolato va così, quello della qualità più bassa, mentre va così il prezzo della qualità più alta. Quindi c'è proprio una volontà, c'è proprio un processo lungo, insomma, di differenziazione. Poi riporto. Sì, sì. C'è anche per le industrie, cioè all'interno dell'Europa, vabbè, consuma di più la Spagna, però i livelli di sviluppo industriale per la lavorazione del cioccolato è la Spagna, la paese che in quel periodo è la Spagna. Poi quando Van Houten si inventa la macchina per la lavorazione meccanica del cacao, per la questione cambia. E si ha l'industria dell'Ottocento, che appunto c'è, cioè, quella del Settecento è un'industria artigianale, cioè sono una serie di cioccolatieri proprio, no? Hanno una meccanizzazione molto limitata. Nel momento in cui c'è l'avvento della meccanizzazione nella produzione nel corso dell'Ottocento, le dinamiche si fanno molto diverse e i paesi del centro Europa la fanno da padrone. Però per dire, in Inghilterra, cioè, sia a livello in quel periodo lì, sia a livello di produzione e di consumo, la Spagna fa da... E a livello commerciale, cioè in Inghilterra fondamentalmente, per esempio, importava un sacco di cacao a un certo punto, quando li stoppava. Non avevano particolare interesse che diventasse un prodotto di consumo, mentre fanno una cosa molto simile con te, perché era bello, era appunto sicuro, dovevano il controllo sulla produzione. Sopravvissuto. Se avete altre domande? Com'è possibile oggi affrontare un'economia in espansione riguardo applicante ai prodotti di maggior largo consumo come cioccolato, tè e caffè nel pieno applicante rispetto delle popolazioni locali? Allora, oddio, ci sarebbe una domanda a monte, è possibile? Allora, no, ci sono tanti tentativi. Io mi limito a riportarteli, nel senso che non mi sento di dare un giudizio, che si aprirebbe un discorso sui consumi e che mi trovo molto, cioè, molto più distruttiva che costruttiva, e non mi va bene nulla, si potrebbe dire. Però ti riporto, per esempio, ti faccio l'esempio di una serie come si sfugge al lavoro proprio. Si sfugge innanzitutto dando la possibilità di lavorare il prodotto. C'è infatti una serie di il famoso fair trade, no? Il fair trade, ci sono due dinamiche, e che ad oggi la dinamica del fair trade è in parte superata, nel senso è sicuramente quella più presente, però mentre il fair trade quello che ti propone è un primo meccanismo, nasce negli anni 80, ti propone di pagare un prodotto a giusto prezzo. Pagare il prodotto a giusto prezzo però non mette in condizione, non dà uno stimolo a quell'economia che comunque dovrà andare con il giusto prezzo, dovrà andare a cercare tutta una serie di prodotti di sussistenza comunque fuori dalla sua economia. Non per nulla una delle più grandi distorsioni del fair trade è quella famosa, quella della quinoa, che c'è, cioè, nella parte andina produceva, a un certo punto la quinoa che fa tanto moda da noi, è molto fair trade, tutto quel che vuoi, ma la quinoa ha avuto una di quelle distorsioni devastanti, perché consumavano tutti, cioè a quel punto produceva tutti quinoa, certo, ti garantisce un prezzo più alto, peccato che poi non producevano più tutto il resto che serviva per vivere. Per cui il fair trade smonta la dinamica dell'impoverimento del contadino dal punto di vista di quanto pago, no, per il prodotto, ma non mi smonta un meccanismo economico che poi costringe la popolazione che produce il bene non lavorato a cercare poi comunque fuori dalla sua economia, fuori dalla sua produzione, quindi a un prezzo altissimo, tutto il resto di cui ha bisogno. Ti posso riportare invece per esempio altri esempi secondo me molto virtuosi di un paio di fabbriche, per esempio italiane, una è fallita, si chiamava Ecoland, chissà perché è fallita, insomma, per cui non so, però finché per esempio Ecoland c'era stata, era una fabbrica che si avvaleva dei meccanismi del fair trade per procurarsi il cacao, che poi però dopo pochissimi aveva sviluppato tutta una serie di legami con la regione in Ecuador dove si procurava il cacao. E che cosa aveva fatto? Aveva, una volta che aveva cambiato i macchinari, aveva preso tutti i propri vecchi macchinari e a proprie spese li aveva portati lì a Salinas, in Ecuador. Questo ha fatto sì che ad oggi effettivamente Salinas sia una delle regioni, dei posti principali dove si produce il cioccolato in Ecuador. Questa per esempio era una dinamica particolarmente virtuosa, perché? Perché non è semplicemente io ti continuo a rendere dipendente, però ti pago, ti metto in condizione di comprare da me con più soldi, cioè ti do più soldi così hai maggior potere d'acquisto, ma fondamentalmente non produci ciò di cui hai bisogno. Ma era una dinamica che ha permesso per esempio che adesso il cioccolato, ci sia un mercato del cioccolato in Ecuador. Cioè adesso ci sono dei produttori ecuadoregni, soprattutto a Salinas e in altri luoghi limitrofi, dove producono il cioccolato, lo producono loro, cioè se lo producono, poi si producono il prodotto finale e lo vendono. Quindi creando una dinamica interna di sviluppo. Per esempio, è solo un esempio che posso fare, però secondo me queste sono dinamiche che in qualche modo vanno. Cioè fondamentalmente tutte quelle dinamiche non hanno, che non presuppongono la dipendenza continua. Cioè quelle dinamiche si compongono di una spinta e poi un meccanismo che vanno da solo, che si autoalimenti e che cioè, con esiti poi ancora tutti da verificare, cioè, che sono ovviamente ignoti ma che ha una vita propria. Mentre il free trade non è un fenomeno di per sé, se non con tutta una serie di altre iniziative accanto o di altre cose che poi sono nate, ha una vita propria. Non smonta il meccanismo economico che era la base, no? E poi questo ti posso dire, poi non essere di citare il caso. Le posso in più, bisogna finire.